Altofest Napoli 2022, il 10 giugno. Ci troviamo nella casa del donatore di spazio Alessandro Pezzella, che in questo momento non c'è. Questa che ascoltate è la voce di Enrico Roccia, che si trova in questo momento in compagnia degli artisti Lea Barletti e Werner Bass, alle quali faremo delle domande per la rubrica Intravista Casa in Risonanza. E partiamo proprio, poi il primo che vuole rispondere, giostratevi la cosa tra di voi. La prima domanda, in breve, riuscireste a descriverci questa casa? Sì, cioè ci provo. Sono vari livelli. È una casa multilivello, sali da questa strada abbastanza stretta, no? Che è il cavone, non particolarmente luminosa, questo androne di questo palazzo comunque molto alto, perché siamo, diciamo, la casa è al sesto piano, però noi adesso qui siamo al settimo perché è la mansarda, sì. No? E quindi c'è una salita, come un addentrarsi per poi uscire alla luce, che qui su questa terrazza non manca, come vedete. E poi è incredibile perché c'è questo che credo sia, no, che dicevi tu, un ex carcere minorile, che incombe, incombe, no? Diciamo, con abbastanza, cioè lo è abbastanza cupo, no? E però poi c'è il cielo e tutti questi, si vede il golfo del mare, sì. Si vede il vulcano, il cielo molto mutevole col vento, insomma c'è tanta luce. Quindi è è multilivello, a livello di altezza, a livello di luminosità, di luce, è una casa, diciamo, che si scopre piano piano. È una casa con un gatto importante, Sally abita qui, è pieno di vento. Sì, molto bello, bellissimo. Bella, bellissimo. Cioè, pieno di rumori anche. Di suoni, stamattina ci hanno suonato, che cos'era? Non lo so, facevano le prove di un'orchestra molto bella, credo che ci sia anche un istituto di musica, perché appunto hanno suonato tutta la mattina, molto bello, ma più che rumori, suoni, devo dire, cioè non sono rumori fastidiosi qua, è molto, cioè sono i suoni dei gabbiani, cioè il rumore dei gabbiani, degli uccelli. C'è il nido di due falchi là sopra con i piccoli che cinguettano. Sì. Poi piena di piante. Sì. Beh, insomma. È una casa, sì, notevole. Molto, un'isola. Molto bella. Qualcosa di questa casa, parlando di suoni, ha risuonato in voi? Qualcosa vi ha preso? Sto sempre parlando io. Sì. Allora, parla tu. Se vuoi, parla tu. Ha risuonato in noi. Cioè che ha risvegliato delle cose. Sì, questo è il senso del termine italiano. Sì. Non so, ieri pomeriggio stavo seduto qua su questo dondolo e cercavo di scrivere delle cose, insomma, per nuovi concetti. E davanti a me questa facciata dell'Istituto Filangieri e dall'altra parte il vulcano, c'era il temporale in atto, così, e diciamo che era una bella situazione, insomma, una bella situazione per gotica, per stare con se stessi anche, o per far viaggiare il pensiero. E la presenza del gatto è utile. Allora, sì, ha risuonato, risuona in questo senso. Lo spettacolo comunque che noi ci ritroviamo a riadattare in questo luogo, in questa casa, è uno spettacolo molto, molto buio, molto oscuro. Poi qui noi ci ritroviamo invece in questa oasi di luce che è questa terrazza. E però quello che che invece poi se uno si guarda bene intorno, no? Cioè, per esempio questo luogo molto oscuro che incombe, che è l'istituto, l'ex istituto. Quindi, come faceva giustamente notare Anna l'altro giorno, l'oscurità non è necessariamente solo una questione, diciamo, di luce o di buio, ma può essere anche vista in altro modo. Certo, questo è un discorso difficilmente applicabile adesso in questo, cioè proprio allo spettacolo che ha bisogno effettivamente del buio e che quindi cercheremo di fare al buio in ogni caso la sera, oppure il giorno che dobbiamo farlo a mezzogiorno, comunque in casa, non, anche se noi ci piace tantissimo appunto la scenografia qui della terrazza, utilizzeremo anche la casa, che invece è di per sé giù, ha delle parti piuttosto buie, sì. Ecco, in questo senso tra luce e buio ha risuonato, sì. Ci ha fatto fare delle domande, ci pone delle questioni su come riadattare lo spettacolo. Tutto alla ricerca del buio nel cavone. E invece è pieno di luce il cavone da questa posizione, e il buio ce lo dovremmo andare a cercare. In effetti lei adesso ha risposto, ma anche lui ha risposto all'altra domanda che volevo fare, cioè quale aspetto poi avresti utilizzato per il lavoro, eccetera. Eppure tu hai sostanzialmente hai risposto all'altra. E qui passo direttamente all'ultima domanda. Ve la sentiresti raccontarci il vostro ospite? Oddio, adesso siamo arrivati da poco, sì, da sì. Due giorni. Approfittate che non c'è. Quindi, no, poi, no, poi, nel qua, senso, nel poi senso, pubblichiamo quando ve ne andate. No, l'abbiamo poco. Ancora conosciuto poco, perché siamo arrivati l'altro ieri e lui lavora e io poi appunto non sono stata bene da ieri sera a oggi, quindi però allora possiamo farlo attraverso la casa. Sì. Più che attraverso sì. Lui possiamo, diciamo, intuire delle cose, il fatto che abbia una gatta, che ami tantissimo le piante, è un musicista, questo a parte che lo sappiamo, ma si vede entrando in casa, perché la casa è piena di strumenti musicali. E quindi sì, è una persona sicuramente molto attenta a rendere accoglienti gli ambienti, e quindi è una persona molto ospitale, ma questo è quasi ovvio, perché sennò uno non ospite, non si presterebbe a ospitare due sconosciuti in casa. E si sente tanto la musica qui, si sente tanto la musica e l'amore per le piante, e per gli animali e per l'accoglienza negli ambienti. Quindi questo è quello che si sente. E l'amore per il viola. È da vari indizi che adesso non vi posso... per il colore viola, che tra parentesi è anche il mio colore preferito. Aggiungo una cosa, se volete quell'enorme edificio che avete perfettamente indovinato, è un ex prigione per minorenni, se volete lo posso anche far visitare. Ah, ecco, molto volentieri. Sì, volentieri. Ok. Grazie. Tu volevi dire qualcosa? No, che hai intuito? L'hai descritto bene, mi sembra una persona generosa, ma appunto non... Non lo, dalla non casa l'abbiamo conosciuto ancora abbastanza. Oggi oggi pranziamo insieme. Ah, quindi sarà l'occasione. Potete pure salire, quindi sì, volendo. C'ha da fare, è anche una persona molto impegnata, insomma, si c'ha da fare dei ragazzi, cose, insomma, fa varie iniziative musicali e di altro tipo. Quindi. I ragazzi, quindi si vede che è una persona molto generosa e attiva.